Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. La regina era in mezzo alle sue dame. Madame de Guémené leggeva a voce alta e tutte l'ascoltavano attentamente, tranne la regina che invece aveva provocato quella lettura per poter seguire, fingendo di ascoltare, il filo dei propri pensieri. Pensieri che, sebbene dorati da un ultimo riflesso d'amore, erano pur sempre malinconici. Privata della fiducia del marito, perseguitata dall'odio del cardinale, il quale non poteva perdonarle di aver respinto un più tenero sentimento, Anna d'Austria aveva veduto cadere intorno a sé i suoi più fidi servitori, i suoi più intimi confidenti, i suoi più cari favoriti. Proprio nel momento in cui era immersa nelle più gravi e cupe riflessioni, la porta della stanza si aprì e il re entrò. La lettrice tacque immediatamente. Tutte le dame si alzarono e si fece un profondo silenzio. Il re non mostrò alcun segno di cortesia. Si limitò a fermarsi di fronte alla regina, dicendole con voce alterata: «Signora, riceverete la visita del signor cancelliere, che vi comunicherà alcune cose di cui l'ho incaricato». L'infelice sovrana, che era continuamente minacciata di divorzio, di esilio e perfino di processo, impallidì sotto il rossetto e non poté trattenersi dal dire: «Ma perché tale visita, sire? Che mi dirà il cancelliere che vostra maestà non possa dirmi di persona?» Il re girò sui tacchi senza rispondere. E quasi nello stesso istante il capitano delle guardie annunziò Monsieur Séguier, il cancelliere. Quando questi comparve, il re era già uscito da un'altra porta. Il cancelliere entrò un po' sorridendo e un po' arrossendo. La regina era ancora in piedi, ma non appena l'ebbe scorto, tornò a sedere sul suo seggiolone facendo cenno alle dame di sedere sui cuscini e sugli sgabelli. E in tono estremamente altezzoso: «Che desiderate, signore?» chiese Anna d'Austria. «Qual è lo scopo del vostro ingresso qui?» «Per compiervi in nome del re, signora, fermo restando il rispetto che ho l'onore di dovere a vostra maestà, un'attenta perquisizione delle vostre carte». «Come, signore? Una perquisizione delle mie carte? A me? Ma è indegno! Vogliate perdonarmi, signora, ma in tale circostanza non sono che lo strumento di cui si serve il re. Perquisite dunque, signore. Sono una criminale, a quanto pare. E Stefania, consegnate le chiavi dei miei tavoli e dei miei secretari». Tanto per salvare la forma, il cancelliere diede un'occhiata nei mobili, ma sapeva benissimo che non era certo in un mobile che la regina aveva chiuso l'importante lettera da lei scritta nella giornata. Quando ebbe riaperto e richiuso una ventina di volte i cassetti dello scrittoio, fu pur necessario, per quanto esitasse, fu pur necessario, dico, venire alla conclusione della faccenda, ossia perquisire la persona della regina. Si diresse quindi verso Anna d'Austria e, con tono assai perplesso e molto imbarazzato, disse: «E adesso non rimane che la perquisizione essenziale». «E sia», disse Anna d'Austria, «le spie del cardinale l'hanno ben servito. Ho oggi scritto una lettera che non è partita. La lettera è qui». E la regina portò la sua bella mano al corsetto. «Allora datemi quella lettera, signora», disse il cancelliere. «La darò soltanto al re, signore», rispose Anna. «Se il re avesse voluto che quella lettera gli venisse consegnata, signora, ve l'avrebbe chiesta egli stesso. Ma, ve lo ripeto, ha incaricato me di chiedervela, e se non la consegnaste, signora, sono autorizzato a cercare il foglio sospetto sulla persona di vostra maestà. Non lo sopporterò. No, no, piuttosto la morte!» esclamò la regina, nella quale si ribellava l'imperioso sangue della spagnola e dell'austriaca. Il cancelliere fece un profondo inchino, poi, con la palese intenzione di non indietreggiare di un pollice nell'adempimento della sua incombenza, e come avrebbe potuto farlo l'aiutante del carnefice nella camera di tortura, si avvicinò a Anna d'Austria, dai cui occhi si videro sgorgare nell'attimo stesso lacrime di rabbia. Anna d'Austria indietreggiò d'un passo, così pallida che si sarebbe detto stesse per spirare, e appoggiandosi con la mano sinistra per non cadere a un tavolo dietro di lei, con la destra trasse dal seno un foglio e lo tese al guardasigilli. Non appena la porta si fu richiusa dietro di lui, la regina cadde semisvenuta tra le braccia delle sue dame. Il cancelliere si recò a consegnare la lettera al re senza averne letto una sola parola. Il sovrano la prese con mano tremante, cercò l'indirizzo che mancava, divenne pallidissimo, l'aprì lentamente. Poi, vedendo dalle prime parole che era rivolta al re di Spagna, lesse molto in fretta. Si trattava di un piano diretto contro il cardinale. La regina invitava il fratello e l'imperatore d'Austria, offesi dalla politica di Richelieu, a fingere di dichiarare la guerra alla Francia e imporre come condizione di pace il congedo del cardinale. Di amore, in tutta la lettera, neppure una sillaba. Il re, allegrissimo, chiese se il cardinale era ancora al Louvre. Gli fu detto che Sua Eminenza aspettava nello studio gli ordini di Sua Maestà. Il re vi si recò immediatamente. «Sì, duca», gli disse, «avevate ragione, e io avevo torto. Tutto l'intrigo è politico, e l'amore in questa lettera non c'entra per nulla, eccola. In cambio si parla molto di voi». Il cardinale prese la lettera e la lesse con la massima attenzione, poi, giunto in fondo, la rilesse di nuovo. «Ebbene, maestà», disse, «vedete fin dove arrivano i miei nemici. Vi minacciano di due guerre se non mi licenziate. Al vostro posto, davvero, sire, cederei a istanze così potenti e dal canto mio, con vera gioia, mi ritirerei dagli affari». «Che dite mai, duca?» «Dico, sire, che la mia salute si consuma in queste lotte eccessive e in questo lavoro continuo, che sono uomo di chiesa e vengo continuamente distolto dalla mia vocazione per dedicarmi a cose per le quali non ho la minima attitudine». «Signor duca», rispose il re, «capisco, rassicuratevi, tutti quelli che sono menzionati nella lettera verranno puniti come meritano, e anche la regina». «Che dite mai, sire? Dio mi guardi che per colpa mia la regina abbia a patire la più lieve contrarietà. Mi ha sempre considerato suo nemico, sire, benché vostra maestà possa testimoniare che ne presi sempre le parti, anche contro di voi. Oh, se ella tradisse l'onore di vostra maestà sarebbe diverso, e sarei il primo a dire nessuna pietà, sire, nessuna pietà per la colpevole. Fortunatamente non è così, e vostra maestà ne ha avuto ora un'altra prova». «È vero, signor cardinale», disse il re, «e avevate ragione, come sempre, ma la regina merita comunque la mia collera». «Siete voi, sire, che siete in corso nella sua, e davvero, se ella vi tenesse seriamente il broncio, lo capirei. Vostra maestà l'ha trattata con tale severità». «E così tratterò sempre i miei nemici e i vostri, duca, per quanto d'alto lignaggio, quali che siano i pericoli a cui vado incontro, agendo severamente con loro». «La regina è mia nemica, ma non la vostra, sire. Anzi, è sposa devota, sottomessa e irreprensibile». «Allora si umili e faccia lei il primo passo». «Al contrario, sire, date l'esempio. Avete avuto per primo torto, perché foste voi a sospettare la regina». «Io? Il primo passo?» disse il re. «Mai, sire, ve ne supplico. Del resto, in che modo? Nel modo che sapete possa farle piacere». «E quale?» «Date un ballo. Sapete quanto la regina ami la danza. Ti garantisco che il suo rancore non resisterà a una simile premura. Signor Cardinale, sapete che non mi piacciono tutti i divertimenti mondani. La regina ve ne sarà ancora più grata, perché conosce la vostra avversione per questi svaghi. D'altronde sarà per lei un'occasione per portare quei bei puntali di diamanti che voi le donaste l'altro giorno per la sua festa e che non ha avuto ancora modo di sfoggiare. Vedremo, signor Cardinale, vedremo, fece il re, che nella gioia di aver scoperto la regina colpevole di un reato che poco gli importava e innocente di un fallo che temeva assai, era dispostissimo a riconciliarsi con lei. Vedremo, ma parola d'onore, siete troppo indulgente. Sire, rispose il cardinale, lasciate la severità ai ministri. L'indulgenza è la virtù dei re. Adoperatela e vedrete che ve ne troverete contento. E qui il cardinale, sentendo l'orologio suonare le 11, si inchinò profondamente chiedendo al sovrano il permesso di ritirarsi e supplicandolo di riconciliarsi con la regina. Il cardinale tornava a battere con il re il tasto dei puntali di diamanti. Luigi XIII rimase impressionato dall'insistenza e pensò che tale raccomandazione celasse un mistero. Più di una volta era rimasto umiliato che il cardinale, la cui polizia, senza aver raggiunto la perfezione della polizia moderna, era eccellente, fosse meglio informato di lui su quanto avveniva nella sua intimità domestica. Sperò quindi, in una conversazione con Anna d'Austria, di saperne qualcosa per poi tornare alla sua eminenza con qualche segreto noto o ignoto che fosse al cardinale, cosa che in entrambi i casi lo avrebbe fatto salire di molto nella stima del suo ministro. Andò dunque dalla regina e, come d'abitudine, incominciò a proferire nuove minacce contro quelli che la circondavano. Anna d'Austria chinò il capo, lasciò scorrere il torrente senza rispondere, sperando che si sarebbe fermato. Ma non era questo che voleva Luigi XIII, egli voleva una discussione dalla quale scaturisse un chiarimento qualsiasi, convinto com'era che il cardinale avesse qualche pensiero recondito e gli preparasse una terribile sorpresa, come sua eminenza sapeva combinarne. Giunse allo scopo insistendo nelle accuse. «Ma», esclamò Anna d'Austria, stanca di quegli attacchi vaghi, «ma sire, voi non mi dite tutto quello che avete in cuore, che ho mai fatto? Orsù, che delitto ho commesso? È impossibile che vostra maestà faccia tanto chiasso per una lettera scritta a mio fratello». Il re, assalito a sua volta in modo così diretto, non seppe che rispondere. Pensò che fosse il momento di inserire la raccomandazione che avrebbe dovuto fare soltanto la vigilia della festa. «Signora», disse con sussiego, «di qui a poco ci sarà un ballo all'Hôtel de Ville. Voglio che voi facciate la vostra comparsa in abito da cerimonia e soprattutto ornata di quei puntali di diamanti che vi regalai per il vostro compleanno. Ecco la mia risposta». Era una risposta tremenda. Anna d'Austria credette che Luigi XIII sapesse ogni cosa. Impallidì straordinariamente. Appoggiò su di una console la mano di una bellezza mirabile e che in quel momento pareva di cera. E guardando il re con occhi spaventati, non rispose sillaba. «Capite, signora?» disse il re, che gioiva profondamente di quell'impaccio, ma senza indovinarne la causa. «Capite?» «Sì, sire, capisco», balbettò la regina. «Verrete al ballo?» «Sì». «Con i puntali?» «Sì». Il pallore della regina aumentò ancora, seppure era possibile. Il re se ne avvide e ne gioì con quella fredda crudeltà che era uno dei suoi lati peggiori. «Allora intesi, ecco quanto avevo da dirvi», disse il re ritirandosi. La regina fece una riverenza, non tanto per etichetta, quanto perché le ginocchia le si piegavano. Il re se ne andò soddisfattissimo. «Sono perduta», mormorò la regina. «Perduta perché il cardinale sa tutto, ed è lui che sobilla il re, che ancora non sa niente, ma che ben presto saprà tutto. Sono perduta. Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio!» Si inginocchiò su un cuscino e pregò con la testa affondata tra le braccia palpitanti. La situazione era terribile. Buckingham era tornato a Londra. Madame de Chevreuse era a Tours. Più sorvegliata che mai, la regina sentiva confusamente che una delle sue dame la tradiva, senza saper dire quale. La Porte non poteva lasciare il Louvre. Ella non aveva anima viva di cui fidarsi. Pertanto, di fronte alla sciagura che la minacciava e all'abbandono in cui si trovava, scoppiò in singhiozzi. «Non posso proprio essere utile in nulla a Vostra Maestà», disse a un tratto una voce tutta dolcezza e compassione. La regina si volse bruscamente, perché l'inflessione di quella voce non permetteva di ingannarsi. Chi parlava così era un'amica. Difatti, a una delle porte che davano nell'appartamento della regina, comparve la graziosa Madame Bonacieux. Stava riassettando gli abiti e la biancheria quando era entrato il re. Non era potuto uscire e aveva udito tutto. La regina emise un grido acuto vedendosi scoperta, perché nel turbamento non riconobbe sulle prime la giovane cucitrice datale dalla Porte. «Oh, non temete nulla, signora», disse quella giungendo le mani e piangendo anche lei per le angosce della regina. «Sono devota, anima e corpo, a Vostra Maestà, e per quanto distante da voi, per quanto sia umile la mia posizione, credo di aver trovato un modo per trarre dalle pene Vostra Maestà». «Voi, cielo, voi!» esclamò la regina. «Ma su via, guardatemi in faccia, sono tradita da tutti, posso fidarmi di voi?» «Sì», esclamò Madame Bonacieux. «Sì, ci sono qui dei traditori, ma per il santo nome della Vergine, vi giuro che nessuno è più devoto di me a Vostra Maestà. Quei puntali che il re richiede li avete dati al duca di Buckingham, vero? Quei puntali erano racchiusi in un cofanetto di bois de rose che egli teneva sotto il braccio. O forse sbaglio? Non è così? Oh mio Dio! Mio Dio!» mormorò la regina battendo i denti dallo spavento. «Ebbene, quei puntali», continuò Madame Bonacieux, «bisogna riaverli». «Sì, certo, bisogna», esclamò la regina. «Ma come fare, come arrivarci?» «Abbiate fiducia in me, signora. Fatemi questo onore, mia regina, e io troverò il messaggero». «Ma bisognerà scrivere». «Oh sì, è indispensabile. Due righe della mano di Vostra Maestà e il vostro sigillo privato. Ma quelle due righe sono la mia condanna. È il divorzio, è l'esilio, sì, se cadono in mani infami. Ma garantisco io che queste due righe verranno consegnate al loro indirizzo. Oh mio Dio, devo dunque consegnare nelle vostre mani la mia vita, il mio onore, la mia reputazione. Sì, sì, signora, è necessario, e tutto questo io lo salverò. Ma come? Ditemelo almeno». «Mio marito è stato rimesso in libertà 2 o 3 giorni fa. Non ho avuto ancora il tempo di rivederlo. È un bravo uomo, onesto, che non prova né odio né amore per nessuno. Farà quel che vorrò io. Partirà su mio ordine, senza sapere ciò che porta, e consegnerà la lettera di Vostra Maestà, senza neppure sapere che sia di Vostra Maestà, all'indirizzo che essa indicherà». La regina afferrò entrambe le mani della giovane donna con uno slancio appassionato, la guardò come per leggerle in fondo al cuore e, non scorgendo nei suoi begli occhi altro che sincerità, la baciò teneramente. «Fallo!» esclamò. «E mi avrai salvata la vita! Mi avrai salvato l'onore!» La regina corse a un tavolino sul quale stavano inchiostro, carta e penne. Scrisse due righe, sigillò la lettera con il suo sigillo e la consegnò a Madame Bonacieux. E ora disse: «Dimenticavamo una cosa assolutamente necessaria.» «Quale?» «Il denaro.» Madame Bonacieux arrossì. «Sì, è vero», disse. «E confesserò a Vostra Maestà che mio marito...» «Tuo marito non ne ha. Vuoi dire questo?» «No, ne ha, ma è avarissimo. È il suo difetto.» «Gli è che neppure io ne ho», disse la regina. «Ma aspetta.» Anna d'Austria corse al suo scrigno. «Prendi, eccoti un anello di gran valore, a quanto dicono. Me l'ha dato mio fratello, il re di Spagna, e mio, e posso disporne. Prendilo e ricavane del denaro, e che tuo marito parta. Fra un'ora sarete obbedita.» «Vedi l'indirizzo?» soggiunse la regina, parlando così sommessa che la si poteva a malapena udire. «A Milord, duca di Buckingham, a Londra. La lettera sarà consegnata a lui in persona.» Madame Bonacieux baciò le mani della regina, nascose il foglio nel corpetto e disparve con la leggerezza d'un uccello.